Allora parlo con la zanzara, ciao belli, radio DJ, DJ Angelo Roberto Ferrari da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente, no, male. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oh, abemus papam, abemus papam, cari ascoltatori, popolo della radio. Finalmente abbiamo la confessione pubblica che tantissimo attendevamo. Tutti noi attendevamo che cosa? La confessione pubblica dell'amore politico dell'anno. Cioè, aspettavamo solo questo, che finalmente uno dei due crollasse di fronte all'evidenza. Stiamo parlando della nuova coppia della politica italiana, della politica televisiva italiana. Il leader della Lega Matteo Salvini e la signorina Elisa Isoardi, conduttrice di Uno Mattino, come diavolo si chiama la trasmissione su Rai 1. Caro Parenzo, che cosa ha detto la signora Isoardi confessando oggi? Confessando oggi, tanto non te se sente, chiudiamo il collegamento. Confessando oggi quello che tutti sapevano, perché diciamo la verità, forse abbiamo fatto anche un piccolo errore noi, ma noi dell'informazione, perché qualcuno me lo ha anticipato un mese e mezzo fa, due mesi fa, c'era chi lo sapeva da tre mesi, da quattro mesi, e queste cose ogni tanto restano lì, non vengono dette, non vengono subito tirate fuori, quasi per una sorta di pudore, no? Di pudore di fronte invece a una notizia di gossip che riguarda anche la politica e che va data lo stesso, va data insieme alle altre notizie. Siamo stati troppo prudenti anche su questo fronte, bisogna dire la verità. La signora Isoardi in un'intervista a Chi ha detto, conoscete signora Isoardi? Sì, tu la conosci Parenzo, sì? Certo che la conosco, la conosci? Seguo ogni tanto la mattina. Bah, certo, la segui la mattina, adesso non esagerare, cioè, la segui la mattina. Ogni tanto quando seguo sia Agorà per ovvie ragioni anche familiari e poi seguo la signora Isoardi. Sono poco interessato a questo genere di gossip. No, ma è un gossip interessante. No, ma è un gossip interessantissimo invece, perché anche perché ieri Salvini gliel'hai chiesto al volo. Ma ha detto, ma si stava imbarcando, ha detto smentisco, ma in realtà. Ma non mi interessa cosa fa. No, ma bisogna fare. Ci interessa di più. No, ma ci sono due strade. No, ma ci sono due strade. Ci sono due strade che sono quelle di solito bisogna chercher la femme, cioè cercare la donna, oppure chercher l'argent, è sempre lì, femmine e denaro. Se uno segue queste due strade, alla fine molte cose si spiegano, perché le donne come sai, nella vita di un uomo sono importanti, possono anche far cambiare gli umori, possono far cambiare gli atteggiamenti verso ma è così, è la realtà. Io sono immune qui nel mio, no, nella mia, nel mio sarcofago, sono immune, sono tetragono a queste cose. Invece Salvini no. E allora la Isoardi cosa ha detto? Ha detto: Matteo Salvini, ci stiamo frequentando, chi vivrà vedrà, mi piace la sua grinta da leader giovane, è una bella persona, mi piace la sua grinta, è uno che parla a tutti, ci stiamo frequentando, ci vediamo, io sono libera, lui pure. Ecco, il fatto che lui fosse libero non era così come chiaro pure. È così, ha detto, che devo fare, mica l'ho detto io, l'ha detto lui pure, io sono libera, lui pure. Evidentemente si sarà lasciato con la signora Giulia, che conosco, che ho visto al matrimonio di un amico comune tempo fa, e la vita è fatta così, lei l'ha detto, sarà vero, altrimenti non posso pensare che questa intervista che la signora Isoardi ha fatto a Chi non sia stata autorizzata dallo stesso Salvini, tra virgolette, no? Autorizzata. Ma no, autorizzata, non è che sono ad Inolfi io, non è che sono ad Inolfi, però. No, però comunque in qualche modo l'avranno concordata, no? È normale. Comunque ora, come dicono, so cazzi, secondo me. Comunque andiamo avanti. Sono sempre cazzi in questo caso, eh? Sono sempre cazzi. No, questa volta no, ma in senso, no, amari sì, ma perché uno è incasinato, già Salvini è uno che c'ha una vita incasinata. Comunque, sull'educazione sentimentale, dice la Isoardi, io cado, sono concentratissima sul lavoro. Molte mie colleghe, da Veronica Mai a Caterina Balivo, sono già sposate con figli. Io non ho fretta, anche se in amore mi ritengo una passionale, vivo tutto sino in fondo. Matteo è più alto, questa è la parte più bella, eh? Matteo è più alto e più magro rispetto a quello che appare in TV. È più alto e più magro rispetto a quello che appare in TV. Ma chi se ne frega? Ma questo l'ha detto lei, amico mio, mica l'ho detto io. No, ma non so, non me la prendo con te, posso ogni tanto fare dei commenti. Certo, chi se ne frega devi. Di quanto è alto il signor Salvini. È molto meglio dal vivo, dice lei, è molto meglio dal vivo. Vabbè, questo qua è buono, no? D'altra parte, non è che ci andiamo noi ma a lei. È molto meglio dal vivo, se ci sta, te credo. Che appunto, sì. E poi per me in un uomo è importante il cervello. Senti questa. Per me in un uomo è importante il cervello. Il cervello è la chimica che si crea, la chimica è importante. Sono anche gelosa, sono di Cuneo, ma possessiva come una napoletana. Mamma mia, sono cazzi! Sentiamo, sono cazzi amarissimi. Sono cazzi amari. Comunque, vabbè, sentiamo la corrispondenza di amorosi sensi tra Salvini e la Isoardi quando Salvini andò ospite le prime volte a 1 mattina. Continuiamo la nostra pagina di politica, Elisa, sì. A parlare di elezioni europee. Finalmente avendolo qua in studio, in carne ed ossa. Avendo Matteo Salvini, tu sei entusiasta. No, ce l'abbiamo sempre in collegamento. Matteo adesso. Salvini, segretario della Lega Nord, io non... benvenuto. Grazie, non vado più via, qua. Una volta che arrivo qua mi fermo qua. Non so se hai notato quando lei dice, quando lui dice alla Isoardi, sei entusiasta. Ce l'ho finalmente qui in carne ed ossa. No, lì è Franco Di Mare, no? No, che Franco Di Mare, uno si chiama Duilio Giammaria, vai avanti, vai. Ah, Duilio Giammaria. L'Europa che decide come si fa il formaggio in malga, esatto, sulla D'Amelio. Esatto, ma esatto. Fammelo fare in malga. I nostri formaggi. Qua c'è un'alleanza in minoranza. Un'alleanza di malga, diciamo. Un'alleanza di malga. Quindi un'alleanza di malga. Io chiedo il voto di chi è a casa come Lega. Alleanza 2 contro 1. L'Europa che decide come si fa il formaggio in malga, esatto, sulla D'Amelio. Esatto, ma esatto. Fammelo fare in malga. I nostri formaggi. Qua c'è un'alleanza in minoranza. Un'alleanza di malga, diciamo. Un'alleanza di malga. Quindi un'alleanza di malga. Io chiedo il voto di chi è a casa come Lega. Colpisce ancora, chiamato questa mattina a un dibattito a Mattino 5 sulla prostituzione, e te pareva? La pensa come David Parezzo. Le case chiuse sono un errore, sono una schiavitù per la donna. Allora perché è favorevole la prostituzione nelle case chiuse e non in strada? Perché non li vedi? Perché non li vedi? Se stanno nelle case chiuse, a occhio non vede, poi non vuole. Allora, infatti Mario. Si chiamano case. Sentiamo il consigliere. Perché non li vuoi vedere? La schiavitù della donna, non la vuoi vedere, questo è l'elemento. Stefania. Basta che ti togli il dolore dagli solo occhi, che se ormai parla io non riesco. Ha ragione anche lei. Vendere il corpo è una cosa orrenda. Questa cosa è orrenda e ci mettiamo tutti d'accordo sul fatto che vendere il corpo anche per condizioni di bisogno nel momento di orrenda mercificazione dell'essere femminile, o se no diciamo che va bene. Ad Adinolfi vorrei far rispondere da un'ascoltatrice della Zanzara, Maria da Roma, che ha chiamato ieri sera. Ma io non ho mai detto che sono. No, aspetta, ma non c'è bisogno che specifichi ogni volta. È la radio, questa qua è la Zanzara, non è porta a porta. Ma non è porta. Ogni volta dai l'impressione, questa qua non è porta a porta. Non c'è bisogno di specificare ogni volta in un momento clou della trasmissione ogni singola cosa. Non è porta a porta. Vabbè, non è questa non è porta. porta a porta, non è porta a porta. Non è neanche minchiata. Va bene, fammi sentire Maria da Roma, dai. Maria da Roma che risponde a di no. Vabbè, dai, non hai capito quello. Non hai capito quello che voglio dire. Dai, via, Maria da Roma, dai. Maria da Roma, dai. Maria da Roma, dai. Sì, buonasera. Allora, io volevo parlare delle prostitute. Sì. Alle prostitute bisognerebbe dargli una bella pensione. Perché? Perché fanno un servizio sociale talmente importante che loro forse neanche se ne accorgono. Che servizio perché sociale fanno? E glielo dico perché. Perché vanno con i sdentati, con l'alito puzzolente, con quelle che non si davano i piedi, con quelle che non si fanno i bidet, con tutto quello deforma. Deforma, con i deformi significa. La signora risponde ad Adinolfi. È con noi Alessandro Cecchi Paone. Ciao Alessandro. Ciao carissimo, ciao a tutti. Vi faccio subito io una domanda, se mi permetti. Quella regola del cherchez la femme o cherchez l'argent. Nel caso di Adinolfi, cos'è che spiega la sua incredibile impennata Teo con Teo Dem? Che ne so, cherchez che la cosa? La femme o l'argent? Non lo so, dimmelo tu. No, chiedo, magari tu lo sapevi. No, dammi una risposta, tu sei tu l'ospite stasera, mica io. Guarda, secondo me purtroppo è una cosa più grave. Lì cioè? C'è qualcuno in curia che aveva bisogno di un'ultima fanfara contro il nuovo Papa e il nuovo corso, e incredibilmente Adinolfi ha deciso di esserlo. Cioè, pagato da, pagato da qualcuno della curia contro il Papa, secondo te? No, pagato non lo so. Vabbè, lo stai dicendo, dire... c'è l'argiano, hai detto. No, o la FAM. Beh, in questo caso la FAM... La fame non credo, cioè. No, comunque sta dicendo e facendo delle cose terrificanti. Io per fortuna ero in un paese laico e liberale, ma quando c'è stato l'orrendo convegno omofobo a Milano c'era pure lui lì con Maroni in prima fila, in prima fila. Ah, c'era, con il prete pedofilo e tutti gli altri. Sì, non è che fosse invitato, non è che fosse un invitato ad onorem il prete pedofilo, però c'era certamente il prete. E c'era pure Adinolfi. Cioè, ma Adinolfi è uno degli organizzatori, cioè... Ma capisci a che livelli è arrivato? Guarda che non era così, quando faceva il blog. Ma che è successo secondo te? Spiegami. Appunto, tu dicevi o la donna o l'argent, qui c'è qualcos'altro. No, ma tu dicevi l'argent. L'argent inteso come qualcuno l'avrà finanziato questo giornale che si chiama La Croce. Ah, tu dici i reazionari della curia che sono gli editori del giornale suo, per forza, mica ci saranno dei volontari in giro che sostengono le spese per uscire con un giornale così, una cosa terribile. Ma dovrebbe essere proibito secondo te? No, assolutamente no. Però voglio dire, è talmente clamorosa non era un uomo particolarmente libertario, ma quando faceva il blogger diceva delle cose che potevano essere anche interessanti, curiose, anticonformiste, ma questa sterzata clerico-fascista è terribile. Ha detto anche di essere contrario all'uso del preservativo, e non è quello il problema, la DS no, non viene... Beh, è una cosa gravissima, una stupidaggine dal punto di vista... Vabbè, questo lo sappiamo, ma tu lo usi sempre, tu lo usi sempre, sicuro. Sicuro, sì. Assolutamente sempre, tranne all'interno di una storia di convivenza. Ma ho capito, ma lo sai che nell'omosessualità comunque è evidente che siccome si fa un certo tipo di sesso, anche nelle relazioni, come dire, no? Anche nelle relazioni così bisogna comunque utilizzarlo, no? No, si possono scegliere i partner, come tra gli eterosessuali ci sono quelli che corrono la cavallina e gli omosessuali pure, ci sono anche i fedeli e gli affidabili. Io quando ho una storia che dura mesi, anni di convivenza, di tutti i giorni nello stesso letto insieme, non ci sono dubbi e non c'è motivo di non fidarsi del proprio partner. È chiaro che se si è single, allora come adesso io si usa il preservativo. Adesso sei single? Sono single, sì. E dai, ed è preservativo, no? Certo, che scherziamo. Ma tu hai mai pagato per qualcuno? Sì, per sesso, sì, ma mica. No, però non avrei nessun problema a farlo quando mi dovessi trovare un momento giù, in un posto in cui sono da solo, in cui. Magari uno paga indirettamente, che ne so, offrendo viaggi, facendo fare. Indirettamente credo che paghino tutti, allora anche le pellicce che certi signori regalano alle mogli. Io mi no, prendo essendo, conto tu stato, prima. Essendo tu stato no, spesso ma... con partner giovani, no? È evidente che tu hai un tenore di vita magari superiore a queste persone qua. Ma questo valeva anche con le ragazze, non c'è nessuna differenza. Pagavo i viaggi o la vita mia anche alle ragazze, quindi non c'è differenza fra maschi e femmine. Senti, tu hai fatto l'amore. Tu hai fatto l'amore sia con gli uomini che con le donne, no? Certo, ma 35 anni con le donne e gli ultimi 15 con gli uomini. Ho capito, ma gli ultimi primi 35 qualcosa con gli uomini avrei fatto? Mai in 35 anni con le donne. Tu ci credi che ho mai visto un pene che non fosse il mio? Fino a 35 anni, manco quello di tuo padre. No, neanche, perché viviamo in una famiglia dove siamo tutti molto, come dire, rispettosi della privacy. Ah. Senti, ma alla fine non c'è paragone, ma secondo te? Ma sarà capitato di fare la doccia una volta? Per te non c'è paragone? Ma no, certo, no, sì, sicuramente, intendo dire un incontro ravvicinato, no, un certo, toccamento. Certo. Sai che tanti etero si fanno le seghette da bambini e da adolescenti? Io mai, assolutamente. Ormai è tutto degradato. Allora, noi siamo con Alessandro Cecchi Paone nella giornata in cui diversi deputati grillini hanno abbandonato Grillo, e uno di questi deputati, che si chiama Samuele Segoni, dato che eravamo in tema, caro Parenzo, sostiene che Grillo è un buffone e Casaleggio un sociopatico. Oh! Contrario, uno dei deputati rimasti, ce ne sono tanti, dice di aver visto, si chiama Paolo Romano, di aver visto SMS con promesse di soldi e incarichi ai fuoriusciti. Voglio chiedere ad Alessandro Cecchi Paone se prima o poi avremo un presidente della Repubblica omosessuale, o forse ce l'abbiamo già avuto, Alessandro? No, non mi risulta, e purtroppo non ce n'è neanche tra i candidati al momento citati. Ci sono stati dei presidenti del Consiglio, ma a me basterebbe qualcuno che si ricordasse che è presidente della Repubblica anche dei cittadini GLBT. Io non ho mai sentito una parola o una... Cioè, ci dovrebbe essere un presidente della Repubblica che nel discorso di insediamento parla di coppia di fatto, matrimonio gay. Beh, e cose, scusami, di questo tu lo sai che Obama di fronte alla nazione ha ringraziato, salutato e garantito i fratelli gay e le sorelle lesbiche davanti a milioni e milioni di persone quando ha fatto l'insediamento del secondo mandato. Quando succederà anche da noi? Porca miseria, mi basterebbe questo. C'è un primo discorso in cui si parla di fratelli gay e sorelle lesbiche. Ma sì, anche perché il Presidente della Repubblica italiano che esordisce fa sorelle lesbiche, fratelli gay, ma direttamente un gay non c'è. Secondo te, secondo Alessandro Cecchi Paone, secondo me la realtà è questa, che non saremo mai un paese civile finché non avremo un presidente gay per la prima volta, o no? Sì, o quantomeno che lo dica, perché l'abbiamo avuti come presidente del Consiglio. Ma quali erano questi presidenti del Consiglio? Scusami, Alessandro. Due democristiani e un laico, ma il nome non si può dire. Ma i laici sono solo due presidenti del Consiglio che ci sono stati, nella prima Repubblica. Due sono stati. E due democristiani. Craxi, e non era certamente omosessuale, e l'altro è Spadolini. Dunque, di Spadolini stai parlando? Per no, quello... io non ho detto niente. E i due democristiani chi sono? Scusa. Sono tutti e due morti, mi pare. Ma chi è uno? Colombo? Beh, potrebbe essere. Ma dai, ma che paura hai ormai? Cioè, che paure hai ormai? Ma non ho paura, rispetto della legge e delle famiglie, voglio dire, non è che conta sapere chi fossero, è certo che ci siano stati. È certo che ci sono stati tre presidenti del Consiglio gay. Che però non si sono assolutamente occupati dei loro fratelli e delle loro sorelle. A me interesserebbe anche uno etero o una donna che dicesse: guardate che nel 2015 un paese civile non può continuare a non occuparsi di queste persone. Cosa che sta succedendo solo da noi in Grecia, nel mondo civile. Parenzo, dove sei? No, io sono a Cracovia. Vabbè, dove sei nel senso adesso, dicevo, non dove sei fisicamente. Sono al freddo, fa meno 8 gradi fisicamente. Bene, sono fuori, ottimo, all'aperto. Ottimo. Meno 8 gradi tra poco. Possiamo dire a Parenzo che, essendo la città natale di Giovanni Paolo II, che sì, grand'uomo, questi temi era. A proposito, il Papa ha ricevuto una coppia o un transessuale. Non so se una coppia di transessuali. Come no? Un transessuale che gli aveva chiesto udienza perché era rifiutato dalla sua comunità, eccetera, eccetera. Ma questo Papa è meraviglioso, capisci? Una persona straordinaria. Ho capito, però poi tutte chiacchiere, però alla no fine. Non sono chiacchiere, secondo me, guarda che dal punto di vista del cambiamento del costume e della mentalità degli arretrati è importantissimo un Papa che dica queste cose. Poi è vero che continua a avere la CEI in Italia che non si è ancora, come dire, messa in riga, continua a avere tutti quelli che quando fa gli incontri sulla famiglia gli votano contro, però insomma io credo che un passo per volta, poi si arriverà anche al cambiamento in dottrina. Guarda che per noi è più importante che lui dica queste cose mediaticamente, perché la dottrina poi riguarda quattro gatti, nessuno segue la dottrina cattolica. Senti, ma secondo te hai letto che la Isoardi ha confessato il flirt con Salvini? Non l'ho letto, vi ho sentito e sono rimasto basito. Perché basito? Ma perché tutto fa pensare Salvini a, tranne che a situazioni romantiche, un uomo che non so se sia così, ma almeno recita la parte di quello rozzo che non si lava, che si veste male, che probabilmente c'ha la barba sempre un po' lunga, vabbè, che c'ha l'alito che sta di grappa, non ce lo vedo, insomma, con Isoardi una bella ragazza. Vabbè, non ce lo vedi, che vuol dire non ce lo vedi? Non ce lo vedo, posso fare, dare un giudizio estetico, etico. Cioè non ti piace proprio Salvini, per esempio, come tipo te? Beh, no, io tutte le volte che l'ho visto ho cominciato a aggredirmi fin dall'inizio senza motivo, tra l'altro anche lì da lei, proprio una mattina. Addirittura? Ah, aspetta, torna tutto. Io sapevo contro Salvini e città, sono orgoglioso di essere. Ma tanto Salvini, sposato, separato, con adesso con una compagna, con un figlio piccolo, con cui evidentemente si è lasciato. Che non è la Isoardi, però tu mi dici. No, che non è la Isoardi, è un'altra. Grande sostenitore contro il matrimonio gay, eccetera, eccetera. Lui è contro la civiltà occidentale e liberale. Io mi ricordo che quel giorno, presente la Isoardi e Giustria, lui mi attaccò e faceva bene, perché Salvini è dell'area clerico-fascista e io sono addirittura clerico-fascista. Gli argomenti sono. Ma tu dici uno che predica bene e razzola male, poi? No, ma io ti dico di più, accanto a lui c'era il ciccione lì, come si chiama, Dinolfi. Il ciccione, dai, pure tu ti ci metti, il ciccione. Ha preso le parti di Salvini. Ma dai, pure tu. Sono rimasto senza parole, mi sono trovato contro Dinolfi e Salvini dicendo che in questo paese i liberali sono disperatamente in minoranza. Ma scusami un attimo, davvero il ciccione è Dinolfi? No, mica, è magro, come Salvini. Vabbè, ma mica sarà un problema, un difetto. Vabbè, però, che vuol dire? Non è un difetto, è una definizione, una descrizione. Se tu mi dici io sono gay, ti dico mica mi offendo, io dico che lui è ciccione, non si può offendere, è un dato di fatto. Vabbè, ho capito, ma quando tu dici ciccione lo dici come dici quel ciccione. No. Come no, dai. Effettivamente, non mi veniva il cognome. Dai, sì, non ti veniva il cognome, il ciccione. Giuro. Dai, su. Ciccione, tu hai capito subito che era Dinolfi. Ah, no? Sì, ho capito perché ne parlavamo prima. Ma non era una cosa. Ma poi non negativa. Puoi definire quell'altro clerico fascista, dai, su, addirittura perché Salvini. No, i contenuti sono quelli, sono i tipici contenuti clerico-fascisti, non solo italiani, ma anche della Croazia, cioè del movimento clerico-fascista francese. Non è neanche questa un'offesa, per me è una spesa gravissima, ma è la descrizione di un pensiero. Ma tu dici questa storia che si è saputo, questa storia che si è saputo di questo suo amore con la Isoardi, di questa relazione, conferma che è uno che predica bene e razzola male, cioè famiglie. No, si dice, guarda, che più la gente ama l'amore, la gode e più si ammorbidisce. Esatto. Non mi sembra che sia questo il caso. Se si ammorbidisce, ben venga la Isoardi. Ma non so se lo fa ammorbidire in realtà. Allora speriamo che lui non faccia diventare rozza lei, che invece è delicatissima. Vabbè, ma rozzo, dai, adesso rozzo. È rozzissimo, ma scusa, ma quell'orribile copertina che non te la ricordi. Ma se fosse l'unico uomo sulla terra ci andresti o no? Assolutamente no. Assolutamente no. Ma guarda che vuol dire che piace un sacco di gay. Pare che sia stato pure in un locale gay recentemente. Dicono. Non credo, perché avrebbe portato appresso Nolfi per far benedire con l'acqua santa, credo. Ciao, a presto, ciao Alessandro. Ciao. Tu ci credi che non ho mai visto un pene che non fosse il mio? Sa che Cruciani ha una schiera fortissima di signorine che si intrattengono con lui, ed è la cosa, ed è l'unica cosa che ti invidio. Noi dobbiamo parlare di figa. Per capire come sono ridotti all'interno del Partito Democratico, come la sinistra, chiamiamola così, l'opposizione interna, odi Matteo Renzi, beh, vi facciamo sentire quello che pensa la senatrice Ricchiuti, di area civatiana. Mamma mia, che brutta parola, che brutto termine che ho usato, area civatiana, per dire quelli che fanno capo a Pippo Civati. Ricchiuti che dice che Renzi ha scelto il modello Ruby. Ora, cosa vuol dire il modello Ruby? Significa parlare praticamente solo con Berlusconi, intrattenersi solo con Berlusconi, il modello Ruby. Mi sorprende allora oggi vedere che con il patto del Nazareno la maggioranza del mio partito sceglie il modello Ruby e non il modello Rubio. Il modello Ruby è quello di trattare segretamente con Berlusconi e Verdini e produrre questa legge inguardabile. Si tratta del cosiddetto Italicum, votato pochi istanti fa dal Senato. Oh, questo Tsipras piace tantissimo a tutti. Tutti si appropriano di Tsipras, è quasi ridicola la cosa. A destra, a sinistra, tutti dicono: evviva, finalmente uno schiaffo all'Europa, la stessa Europa che hanno contribuito a costruire. L'ipocrisia regna sovrana. C'è una sola persona, no, che... ma la follia vera è un'altra, sì, però. Dimmi, siamo porta a porta. Apriamo Tsipras, il dibattito a porta a porta, vai. Il signor Tsipras ha fatto un'alleanza con la destra. Ah, sì, bravo, sì. No, è così, ho letto così. No, bravissimo, no, non è ironico, è vero, ha fatto un'alleanza con un partito di destra. E gli stessi di sinistra, e gli stessi miei amici peraltro di sinistra, elogiano comunque questa grande coalizione fatta con questi, non sono fascistelli, perché non sono i fascisti di Alba Dorata, ci mancherebbe, ma con questa destra greca che francamente non è tra le più liberali. No, ma per me fanno benissimo questi qua della destra greca. Per me è una grande, per me è una contraddizione invece. Ma no, ma non sono una contraddizione, eh. Ma è una contraddizione. Stai pigliando per il culo. No, non ti sto prendendo per il culo. È una contraddizione, diciamo che la cosa è un po' complessa, ovviamente. Anche la destra greca è una destra. Non è complessa, anche una destra anti-euro. Vuole... Vabbè, niente, non si può parlare. È una destra anti-euro. Non, ancora non conosci i tempi della radio dopo tanti anni che bisogna fare. È così, bisogna dargli ancora un po' di lezioni. È una destra anti-euro, anche quella. È una destra contro gli oligarchi, contro il sistema. Dunque, qualche punto in comune c'è. Non è quella il problema. Io mi ricordo quando quelli della sinistra italiana, che adesso sorvolano su questa alleanza tra Tsipras e questo partito, piccolo partito della destra greca, quelli della sinistra italiana, in particolare quelli del Partito Democratico, hanno massacrato Grillo per l'alleanza con Farage, Farage al Parlamento europeo. Lo hanno massacrato dicendo: quello è un fascista, quello è un razzista, quello è contro gli immigrati. Ebbene, questo leader della destra greca alleato di Tsipras, e poi non ne parliamo più perché già mi sono rotti i coglioni, questo leader della destra greca è uno contro gli immigrati, addirittura contro i barboni, pare abbia detto delle frasi contro i gay, è uno che ha gli yacht pazzeschi, insomma è tutto tranne che vicino alla sinistra europea, diciamo. Eppure nessuno dice nulla, perché i destri, quando sono alleati della sinistra, sono un po' meno destri e possono andare bene. Quando invece sono lì alleati magari di Grillo, sono pericolosi. Questo è il punto fondamentale. La Mussolini dice: l'unica cosa corretta che si può dire fino adesso è che questo Tsipras è un bonazzo pazzesco. Che è la realtà, e io non sono omosex, non sono gay, però devo dire che questo Tsipras è un bell'uomo, eh. Noi siamo tutti, o quasi tutti, contenti di questa vittoria di Tsipras, che è un bonazzo, quindi non cominciamo a dire vendola questi che sta. Questo è così. Del è leader, un bonazzone, sì, però quello che voglio dire io di Tsipras, il genere non mi interessa, pensi, ma il punto vabbè, è un bonazzo. Tu pensi il punto che è che il tipo è Banderas Sirizza. Interpretate voi questa frase di Emma Bonino, perché è una frase che bisogna ascoltare bene, eh. Dunque ascoltate, popolo della radio, Emma Bonino, che si è praticamente fuori dalla corsa al Quirinale, però rivendica in realtà di essere ancora in corsa, perché dice: non sono handicappata, sapete che ha confessato di avere un cancro, eccetera eccetera. Però utilizza una frase che francamente lascia un po' perplessi. Dice: non sono mica handicappata. Insomma, non sono mica handicappata, sì, no. Voglio dire, insomma, Roosevelt stava su una sedia a rotelle, mi si dirà erano altri tempi, certo, ma anche per la scienza e la medicina erano altri tempi. No, noi il pregiudizio è che bisogna essere giovani, sani, e poi magari chi è sottoposto a questa sfida in qualche modo è anche più sano, come dire. Allora, è una frase infelice, comunque la si mette, una frase infelice, perché dire no, non è infelice per nulla. Ah, non è infelice dire non sono handicappata. Non sono handicappata, no, non è infelice. Dice, detto da chi ha sempre combattuto per i diritti di tutti, dice, non è ma che c'entra i diritti di tutti? No, perché vedi, in bocca a una persona come Emma Bonino, no, dipende chi le dice quando le cose, uno che sì, lei ma dica. Qua sì, dimmi. Non voleva offendere chi ha non lo so, infatti ho detto mi domando che cos'è questa frase qua. Anzi, Ma hai fatto bene a farla sentire tutta, perché in realtà lei dice perfettamente, anzi, che può essere addirittura un modo per aiutarla a vivere quello di avere un impegno così importante, perché non è che l'avere un tumore. Allora, che senso ha dire no, che senso ha dire non sono handicappata? Che non è, non deve essere considerato un handicap la sua grave malattia. Non sì, può, però tu sai benissimo che dire a fare una grande, d'accordo, e questo va bene, e questo va benissimo. Però se uno dice non sono un handicappata, uno capisce un'altra cosa. Dice, beh, ho un cancro, mica sono handicappata, mica sono sulla sedia a rotelle, mica. Uno capisce quello, cioè la gente comune capisce quello. Scusami, se interpreto la gente comune. Dopodiché, sicuramente. No, ma hai fatto bene a farlo sentire, perché sicuramente intendevo un'altra cosa. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Berlusconi a sorpresa non va all'incontro con Renzi, al Nazareno solo i capigruppo, possibile domani il faccia a faccia decisivo con il Premier. Senato, voto finale sull'Italicum, la minoranza PD esce, Boschi, maggioranza autosufficiente, consultazione PD per il Colle, Alfano, serve un politico. Altri 9 deputati lasciano i 5 Stelle, verso l'uscita anche un senatore, no a una forza distruttiva. I fedeli di Grillo, traditori, la storia li condannerà. Tsipras ha formato il nuovo governo, al leader degli alleati la difesa, il superfalco anti-euro alle finanze. Primo provvedimento, salari minimi più alti. Merkel, no a un taglio del debito della Grecia, già concessi rinvii e riduzione dei tassi di interesse da pagare. Venerdì l'Eurogruppo ad Atene. Attacco in un albergo di Tripoli, 13 morti, obiettivo il premier del governo parallelo, sfuggito all'attentato, i 4 del comando si fanno esplodere. E 70 anni fa l'orrore di Auschwitz, oggi cerimonia nel campo di sterminio, rappresentanti di tutti i paesi con i sopravvissuti, polemica per il mancato invito a Putin. Allora andiamo a Venezia da Pippo. Buonasera, Venezia, Venezia. Milano chiama Venezia. Buonasera Pippo, buonasera. Vai, però non mettere Italia. L'auricolare, togli sto viva voce. Su Pippo, non dai. Nessun auricolare. Dai, forza, dai. Non c'è nessun auricolare. Voglio dire che Cecchi Paone è un gran capone. Perché che ha fatto? È un gran capone, e soprattutto si fa paladino della, degli omosessuali, della discriminazione, eccetera, e poi del ciccione. Ad Inolfi, credo, no? Sì, sì, sì. Allora, l'equazione è questa, secondo me. Ad Inolfi sta a Ciccione come Cecchi Paone sta a Ricchione, giusto? Sì. Perché lui allora ha detto, ah, poi si è ripreso, no? Dice, no, ma io non l'ho offeso, perché se uno mi chiama gay, no, l'equivalente di Ciccione è Ricchione. Sì, sì, vabbè, sì, vabbè, adesso non andiamo lì a fare l'analisi delle parole esatte. No, l'analisi no, perché ha dato del ciccione ad Adinolfi, punto. Ma molto lui non chiaro. Ha detto, ma lui non ha detto quella persona sovrappeso di Adinolfi, ha detto quel ciccione offensivo. Ma certo che secondo me non era in senso positivo. Discriminatorio proprio. Ma discriminatorio, adesso non esageriamo, gli ha dato del ciccione. Così. Vabbè, se te ti chiamano mazza di scopa perché sei magro, non è discriminatorio, non è no, no, non mi offendo, guarda, anche se mi danno, anche se mi dessero del ciccione non mi offenderei. Vabbè. Va bene, okay. Vito Trieste, ciao, ciao. Vito. Buonasera, signor Cruciani. Ogni volta che sento il signor Cecchi Paone, sia per radio sia per TV, non fa altro solo di parlare di gay, omosessualità. Beh, spesso parla di gay, sì. Si faccia inculare se ha bisogno, ma non lo deve divulgare per la televisione, per la radio. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Sì. Capisce? Sì, mi spieghi il concetto. Io la penso così. Mi spieghi il concetto di cui sopra, il concetto iniziale. Lei dice si faccia, com'è che ha detto, scusi Vito? Che si faccia inculare dai preti. No, vabbè, sì. Quello magari non dai preti, magari lui praticamente io non sono contro i gay no. Omosessuali, no. No. Io sono, guardi, io ascolto ogni sera la trasmissione. Sì, ma che c'entra ogni sera. Allora io sono invece dell'idea che se una persona nasce così io lo rispetto. Sì. Se io vedo un ragazzo qui a Trieste, c'è uno sì. Che è un ragazzo omosessuale, lo rispetto sì. E lo difendo anche se una persona lo maltratta, ma questo è ambiguo. ogni volta che va per televisione e per radio non fa altro solo parlare di quello, ma che si faccia incurare da tutti, così la finiamo. Ma scusi, cosa c'è adesso che ma si faccia? È affamato di sesso, di sesso maschile, ma che vada, ma non può dire ma perché, per radio, scusi, per televisione, questo, quell'altro. Ma scusi, che gliene frega a lei? Ma cosa, ma scusi, non ho capito, perché se uno parla... Quell'altro è il suo amichetto, quell'altro pizzomane che sta parlando a poco. Chi è, come si chiama? Pizzomane, che vuol dire pizzomane? È un altro pizzomane, anche lui. Che vuol dire pizzomane, scusi? È pizzomane, è come la pizza, come la mozzarella, che la tiri da una parte e la tiri dall'altra. Un giorno è di qua e un giorno è di là. Pizzomane, lei ha coniato un nuovo termine, pizzomane. No, non è coniato così. Io dico che quella gente lì non deve andare né per TV e neanche perché per non deve radio. Perché non può parlare di Froce TV? No, ma parlano ogni volta, lui, ogni trasmissione che lui va. E vabbè, certo, allora? E parla solo di quello, non parla di altro. E allora? Ma che lui che faccia il giornalista, se lui ha piacere di fare quella, se lui è un omosessuale che gli piace, che se la tenga per lui. Il mondo è libero, uno si vuole. Ma non ho capito perché uno non può parlare di quanto, a parte che non ne parla, perché io l'ho chiesto, no, io. No, ne parla sempre, anche quando lo vedo per televisione. Lui parla sempre, se si mette lui e Sgarbi a confronto, Sgarbi lo mangia, se lo macina. Ma non ho capito, Vito, allora qual è il problema? Che lui si dovrebbe fare prendere da tanti uomini? Ma sì, ma per forza, ma che la finisca ogni volta che viene parla solo di omosessualità e la libertà, ma che lo faccia per lui. Se lui è contento ed è felice, che se lo faccia tranquillamente, nessuno gli vieta. Ma lei dice che ha un solo interesse. Che faccia quello che vuole, io le dico, io ho conosciuto un ragazzo povero in Sardegna tanti anni fa che lavorava in un villaggio, un ragazzo che era gay, un ragazzo meraviglioso, ma lui è nato così, l'hanno picciato, gli hanno tagliato i capelli di notte, l'hanno bastonato e io il giorno dopo ho detto, ma vale sti villani, sti cafoni, ma quel ragazzo lì è nato così, non si può cambiare un ragazzo che è nato così, ma portargli rispetto, ma questo qui non è nato, questo è un maiale depravato. Ciao. E basta. Ciao. Ciao. Viva i Frasi! Viva i Frasi! Ma qui è tutto un casino che siamo. Ma dove siamo? Ma dove vogliamo andare a finire? Ma non facciamo ridere, per favore. Succedono cose molto strane, per esempio il Presidente del Consiglio ieri davanti alla TV, probabilmente durante Piazza Pulita di Formigli, scrive un tweet contro i talk show. La cosa incredibile è che in realtà Renzi partecipa regolarmente ai talk show, ovviamente non partecipa come ospite in combattimento con altri ospiti, ma si fa intervistare tranquillamente nei talk, e prima, quando non era Presidente del Consiglio, partecipava anche ai talk, in scontri, confronti con altri leader politici. Adesso all'improvviso a Renzi non piacciono più i talk show, non solo non piacciono più i talk show, ma addirittura vorrebbe cambiarli, cioè insieme all'Italia dice bisognerebbe pure cambiare i talk show, cosa che a me appare incredibile, eppure nessuno dice nulla, cioè nessuno dice stia zitto, si faccia i cazzi suoi, si occupi di fare il Presidente del Consiglio, no, tutti a dire a chi si riferisce, cioè nessuno che dice una parola chiara. L'avesse scritto Berlusconi, che Berlusconi non usa tweet, ma l'avesse detto Berlusconi, questi talk show mi fanno orrore, mi fanno schifo, bisogna cambiarli, sarebbe successo un pandemonio. Lo dice Renzi? Bisogna che migliorino, dire un'immagine diversa, non mi ricordo nemmeno quello che ha scritto esattamente. Comunque sentiamo Formigli che legge durante Piazza Pulita il tweet di Renzi. Siamo molto attivi su Twitter, evidentemente ci stava seguendo il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha fatto questo tweet ai suoi 1.600.000 follower: trame, segreti, finti scoop, balle spaziali e retropensieri. Basta una sera alla TV e finalmente capisci la crisi dei talk show in Italia. Cioè il Presidente del Consiglio che si mette a discettare sulla crisi dei talk show in Italia. A me pare una cosa pazzesca, cioè, pazzesca, pazzesca. A te no, Parenzo, non ho capito. Sì, no, no, stavo aspettando che finissi perché non entrò per... Sì, effettivamente in passato Berlusconi anche faceva i suoi commenti sulla televisione. Ma che stavi facendo, scusa, no? Perché stavi seguendo oppure eri distratto per qualche motivo? Stavo seguendo perfettamente tutto. Ah, no, mi sembrava, no. A letto. Sì. No, non ti ho interrotto perché sennò mi dici che ti interrompo, quindi ho ascoltato. No, ma non era questione di interrompere, è questione che non rispondevi proprio. Va bene, è inutile. Paola, Paola da Piacenza, dai, Paola da Piacenza. Non mi hai interpellato. Paola da Piacenza, vai. Buonasera, allora io intervenivo una cosa un po' passata perché vorrei parlare di Cecchi Paone, perché il suo intervento non lo condivido completamente e il fatto che lui chiami Ciccione Adolfi, Salvini puzza, le persone cattoliche che non sono d'accordo col matrimonio omosessuale sono cattofascisti, mi sembra un linguaggio violento fobico da un certo punto di vista per chi non ha la sua stessa opinione. Quindi un paladino di una battaglia come l'omofobia dovrebbe evitare questi termini. In più volevo dire a lei, Cruciani, che è un grande sponsor del matrimonio omosessuale e sì, delle questioni, che dovrebbe approfondire di più gli argomenti. E qui non è porta a porta, non è report, non è porta a porta, non è report, non è. Ma lo volete capire o no? Allora, ma posso dire. Allora, però mi faccia una critica, mi faccia una critica concreta, allora, non blateri. Non approfondisce più gli argomenti. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Della sessualità che porta l'uomo ad essere un animale più che una persona. Ma che ne sa lei della mia visione della sessualità? Ma che ne sa lei? Che ne sa lei? Siamo, ci conosciamo? Ci conosciamo? Ma lei ne parla tutte allora, le sere. Allora che vuol dire? Sarà la sua opinione. Ma qual è la mia visione? Non ho capito qual è la mia visione. Ah, non so, non so, appunto, non lo sa. Le interviste sono generalmente persone che fanno del sesso la loro professione, sia in campo artistico che sui mezzi di comunicazione. Siccome io intervisto un certo tipo di persone, significa le donne, sì, lei sceglie generalmente quelle che hanno fatto un certo tipo di percorso. Sì, no, siccome scelgo degli ospiti, allora ho una visione del sesso di un certo tipo. Certo. È una cosa incredibile. Quando parla della prostituzione come se fosse la cosa migliore del mondo. Non ho detto che è una cosa migliore del mondo, ho detto semplicemente che è un lavoro come un altro essere prostituta. Fare l'amore con 10 persone, con cose, persone animali. Ma perché? No, ma io non ho mai detto che fare l'amore con gli animali è una cosa normale, non dica cazzate. Ma non lo so, lei dice che non dica puttanate, perché sta dicendo delle puttanate inaudite. No, che qualsiasi scelta individuale in quel settore va bene. Dipende ovviamente, ci sono poi dei reati, la zoofilia è un reato, la pedofilia è un reato, amica mia. Ancora è un reato, però se si va avanti a tutte le No, questo è un argomento individuale non si è un argomento, è un argomento sinceramente ridicolo, quello. È un argomento serio. Sì, dopo il matrimonio omosessuale c'è il sesso con gli animali. Ma sicuramente. No, il sesso con gli animali no, però ad esempio ci sono dei partiti che appoggiano la pedofilia, che dove sono passate certe cose sono già in discussione magari. Sì, ma di che stiamo parlando? I partiti che appoggiano la pedofilia in Italia non mi risulta assolutamente. Ma in Italia no. Ma dai Paola, non diciamo stronzate, dai su. Perché non c'è nessuno, non potrà mai avere spazio nulla e nessuno che appoggi la pedofilia, non dica stronzate, dai. Io in Italia no, ma comunque paesi nel dibattito. Paola, non ha nemmeno in altri paesi, sono cose molto molto minoritarie e lei sa bene che appena diventano leggermente pubbliche vengono subito affossate. Il punto fondamentale è che lei mi attribuisce delle cose che io non ho mai detto. Va bene, allora capito male, io mi ma non ha che cosa ha capito, non nemmeno io non so nemmeno che cosa ha capito, questo è il punto, che cosa ma ha capito, so, lei, che per me va bene qualsiasi cosa, no, non va bene qualsiasi cosa, poi c'è la legge, ha capito, poi c'è la legge, no, la legge c'è, la legge, chiaro, sì, va bene, comunque, c'è la legge, non è porta a porta, però lei ha una responsabilità quando io non ho alcuna responsabilità, faccio un programma alla radio, chiaro, responsabile, no, faccio un programma alla radio, sono responsabile di fronte ai tribunali italiani, di fronte al mio editore, chiaro, va bene, grazie, ok, buonasera, bene, ottimo. Paola, provincia di Macerata. Buonasera a tutti. Dimmi Paola, dimmi. No, tra l'altro Renzi in quel tweet sui programmi televisivi ha poi risposto ad un altro signore dicendo: è una cosa seria, dobbiamo cambiare modo di raccontare l'Italia e la politica, non siamo quella roba lì. Ma che vuol dire non siamo quella roba lì? Quella roba lì quale? Di quale trasmissione? Poi tra l'altro, se uno guarda una trasmissione dovrebbe pure avere il coraggio di dire sto guardando Piazza Pulita, mi fa schifo, mi fa orrore quello che stanno dicendo. In particolare uno dovrebbe dire chi lo sta dicendo. Ma non è che ha detto che vuole fare un decreto per cambiare. No, ma quello grazie che non vuole fare un decreto. Se non ce lo spiegavi tu, non lo capivamo. Ho usato apposta iperbole che così tu capisci. Ho capito, dobbiamo cambiare modo di raccontare l'Italia e la politica. Di che parliamo? E dice semplicemente che non gli piace il modo come fa i talk show, va bene. Ma quali talk show? Di chi parla? Sono cose così indeterminate. È il Presidente del Consiglio, non sei tu, non è Parenzo, non è Cruciani, è il Presidente del Consiglio, il quale alle 22.45 scrive su Twitter che i talk show italiani fanno schifo e dobbiamo trovare il modo di cambiarli. Ma stesse zitto, ma lasciasse fare il lavoro agli altri. Da spettatore dei talk show, come tanti, come 40 milioni di italiani. Ma deve stare zitto sui talk show, non deve parlare sui talk show come Presidente del Consiglio. È un mestiere che fanno altri, lui fa il Presidente del Consiglio. Dai, su ragazzi, ma se non si capisce questo siamo all'ABC, veramente. Cioè, non c'è nulla che possa salvare questo tweet di Renzi. Ma nessuno lo mette in rilievo, tranne qualcuno, Dago Spia ed altri. Se ne fottono tutti. Questa è la realtà. Paolo, avanti. Su Renzi con le foto che dovrebbero fare. Ma no, ma è una cosa grave quella che ha scritto Renzi, è una cosa gravissima quella che ha scritto, gravissima secondo me. Dai. Non dovrebbe intervenire, della televisione mi interessa poco, non la guardo per niente, non ce l'ho, pago il canone e non ce l'ho. Facesse l'autore televisivo, si dimettesse da Presidente del Consiglio, fa l'autore che crea una sua casa di produzione e fa tutti i talk show che vuole, avrà un grande successo. Da Presidente del Consiglio non scrive sui talk show, ma non ci vuole tanto per capirlo, Cioè, è una cosa molto semplice, vabbè dai, forza. Volevo tornare sul discorso della prostituzione, non mi ricordo chi ha detto, vendere il corpo è terribile, comunque penso tutti voi, non lo so. Cosa? È vendere il corpo è terribile per quanto riguarda. Senta, la prostituzione esiste da quando esiste l'uomo, esisterà sempre. No, è inutile che uno si batte per la non esistenza della prostituzione. La prostituzione è una cosa positiva per certi aspetti. Positiva. Se lei non si vuole prostituire perché fa un altro mestiere, non si prostituisce, signora Paolo, che le devo dire? Io quello che trovo è che è vendersi e non vendere il corpo che è terribile. Allora, vabbè, vendersi in generale, sì, vabbè, quello purtroppo. Dobbiamo mettere in discussione anche tutta una serie di altre cose. Quindi se accettiamo nella società che la possibilità di vendersi è qualcosa di lecito, ben venga. Mettete le case chiuse, rinchiudetele lì dentro che non le vediamo più per strada, come i tossicodipendenti li chiudiamo nelle comunità, così non li vediamo più per strada e abbiamo risolto il problema dei ben pensanti. Ma è vendersi il problema. Vendersi è terribile. Ma che vuol dire vendersi? Vendersi in generale? Vuol dire che se lei fa la prostituta o se fa il giornalista e si vende, per me è uguale. Vabbè, ma certo, ma per me è identico. Su questo lei ha perfettamente ragione. Ma assolutamente. Vendersi. Ciao Paola, ciao. Quello dei politici o meno. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci. Ciao Paola. Allora ragazzi, grandi novità da Vladimir Luxuria, da casa Luxuria, a proposito di transessuali, dopo che il Papa ne ha ospitata una incredibilmente in Vaticano. Luxuria dice di avere provato una volta il rapporto con una donna, ma sentite. Una cottarella per una ragazzina. Ovviamente. Sì, perché per una ragazza inglese, per due motivi. Uno perché ho detto voglio provare, magari perché non era facile, no? Dico magari l'appetito viene mangiando, no? Per cui ho voluto provare ad avere una relazione con una donna, anche avere un rapporto sessuale con una donna, cioè ho cominciato a toccarla, però più la toccavo per dire come vorrei essere come lei, no? È una specie di Vespa 8, avete sentito la voce di Vespa? Anche a porta si parla di queste cose, dunque non ci rompete le scatole. Credo che fosse nel periodo, diciamo, precedente nel periodo di Vladimiro Guadagno, sicuramente, non nel periodo di Vladimir Luxuria, quasi certamente. Dopodiché Luxuria rivela una cosa incredibile, che effettivamente è vera, abbiamo controllato. Cioè esiste un pellegrinaggio ogni anno il 2 di febbraio, dunque tra pochissimo, prossimo lunedì, un pellegrinaggio in un vicino Avellino, se non sbaglio, comunque in Campania, in Campania ad una, da parte di transessuali ad un convento, ad una chiesa. Sentite. Lei forse non sa, ma il 2 febbraio di ogni anno le transessuali vanno al santuario di Montevergine in provincia di Avellino, dove c'è una Madonna che considerano loro protettrice, che è la Madonna Schiavona, che viene considerata la, la madre di tutti, ma ci vanno davvero con grande fede. La Madonna Schiavona, protettrice delle trans. Non lo sapevo, è stupendo, bisognerà indagare. Le grandi inchieste della Zanzara. Oh! C'è un giudizio flash, mi pare di aver capito, di Vendola su Tsipras. Su Tsipras. Sentite, eh? Sentite con grande attenzione. Vendola su Tsipras. Parenzo, attento, senti. Buonasera. Quando sento Tsipras, si rizza. No, scusa, mi fate risentire un attimo? Buonasera. Quando sento Tsipras, si rizza. Ma... abbiamo ospite un personaggio che in questi giorni in aula, durante la discussione sull'Italicum, si è scatenato. Sentite quello che ha detto, Fra poco lo avremo qui dal vivo. Mi è venuto in mente l'azione che fece un grande artista, Piero Manzoni, nel 1961, quando inscatolò degli escrementi umani, intitolando l'opera Merda di artista. Allora fosse anche una qualcosa che possa richiamare questo singolare artista, ma fateci vedere che cosa avete inscatolato se domani mattina noi ci si rechi alle urne. Questa legge approvata oggi come una merda d'artista. Dopodiché la teoria degli inchini, stupenda. E qua avete un sacco di persone che si sono intossicate dei salamelecchi, degli inchini talmente profondi che a molti di loro gli si vede il culo a furia di abbassarsi. E non è un bel vedere, cari amici. Senatore D'Anna, la prego di usare un linguaggio più appropriato, se possibile. Uso un termine anatomico, Presidente. Sì, ma ci sono vari modi per indicare la stessa parte anatomica. L'ha usato il Papa, credo che sia consono. E soprattutto il concetto che lei vuole esprimere. Il concetto? Prego, continui. L'ha usato il Papa? Lei come lo chiama? Non so, ne facciamo una discussione semantica. Prosegua il suo intervento, bene. Prego. No, perché c'è anche una forma idiomatica, faccia da culo, no? Voglio dire... Scusi, senatore, pregherei di proseguire il suo intervento. Forme, ci sono varie forme di rispettare che sono tutta l'aula. Chiedo scusa. E l'ultimo intervento era su Antonio Zechila, detto Ermutanda. È vero che nel mio partito si accinge a scendere in campo Antonio Zequila, detto Ermutanda, e quindi con Ermutanda nel prossimo Parlamento noi certamente avremo la plastica applicazione di questo vadevecum, di questo zibaldone. Allora... deve dire, senatore D'Anna, deve riconoscere che noi siamo dei suoi, praticamente dei suoi biografi, senatore D'Anna. Grazie, grazie. Come va? Abbastanza male, grazie. Che è successo? Oggi la mazzata finale con sto Italicum approvato, bodo-bom. Com'era la merda d'artista? Ma che vuol dire? Che voleva dire quella meravigliosa metafora, la merda d'artista? Me no, perché Calderoli in quel momento contestava il fatto che il governo, nelle more dell'applicazione della nuova legge elettorale, sì, non avesse predisposto un regolamento aderente alla sentenza della Corte Costituzionale, il famoso consultellum. Vabbè. E quindi dice, ma se domani mattina andiamo a votare, voi avete fatto qualcosa, perché il governo non ha fatto niente. Allora io consigliavo alla Boschi, dici di aver fatto qualcosa, insomma. Metti qualcosa in una scatola e dici che è il regolamento del consultellum. Che la merda d'artista che cos'era alla fine? La merda d'artista era una metafora per dire che all'interno di qualcosa che contiene niente si può sempre mostrare l'involucro se non si può mostrare il contenuto. invece loro non avevano né l'una né l'altra cosa. Ma scusate, ma come la definisce lei sta legge elettorale appena approvata? Una merda? Una schifezza? Una merda, alla Fantozzi, una merdaccia. Una merdaccia addirittura? Come mai una merdaccia? E guardi, l'ho spiegato in aula. Vabbè, ma sinteticamente proprio. Ma sinteticamente, ci sono due tipi di parlamentari. L'uno che ha copiato il tema e sì, viene promosso, ed è il capolista che viene indicato dai capi correnti, dai capi bandi. Su questo sono d'accordo. E l'altro è un povero parlamentare che, pur avendo le stesse prerogative, si deve arrabattare. Il tema se l'è svolto e quindi ha bisogno del voto dei cittadini. Questo spieghiamolo, perché ci sono i capilista che praticamente vengono messi lì. Sono i capilista che possono essere candidati in 10 collegi diversi. Sì, questo l'ha voluto Berlusconi, però, soprattutto. Ma non lo so se questa cosa. Sì, le pluricandidature, le pluricandidature. Vabbè, comunque lasciamo, andiamo avanti, è una cosa troppo tecnica. E lei dice invece poi ci sono quelli che si devono arrabattare poi per cercare le preferenze. Comunque, la legge elettorale approvata oggi, una merdaccia. Una merdaccia. Senti, invece la questione degli inchini, chi è quello e del culo? Io poi sono stupito del fatto che non si possa dire la parola culo in Parlamento, devo dire la verità. Guarda, è un termine anatomico, da Dante in poi. Insomma, è sempre stato usato dalla Divina Commedia in poi. Per cui credo che la volgarità sia più nella malizia di chi la interpreta maliziosamente, appunto. Cioè è più volgare chi ha approvato la in questo modo l'Italia, come dice lei, chi ha fatto. Credo che al di là delle pruderie perveniste, essersi messi la democrazia sotto i piedi è ben più volgare. Però scusi, senatore Danna, voglio capire una cosa, ma chi è che si inchina? E ogni tanto ma era un riferimento a tutti a coloro che poi saranno nominati, no? Perché c'è molta gente che nella speranza di essere capolista si inchina. O nei commenti privati la definisce come l'ho definita io, poi in aula non ha il coraggio di per dire quello che veramente pensa, per non disturbare chi domani lo dovrà ricandidare. E queste sarebbero le facce da culo di cui lei voleva parlare. Queste sono le facce da culo, ma fino a quando sono parlamentari così, ma ci sono persone che nelle loro professioni, nelle loro attività. Ma chi è che mi chiama? No, ma sono gente di valore, di spessore, quindi è veramente. Ma quelli che hanno più la faccia di culo, si possono fare nomi e cognomi? Niente. Non me lo faccio dire. Vabbè, aspetti, adesso ci provo, dopo la pubblicità ci provo. Il senatore Vincenzo Danna ha definito la legge elettorale testé approvata una merdaccia. È evidente che ormai non è più nemmeno in Forza Italia. Vincenzo Danna forse non c'è mai stato. Buonasera. Quando sento Tsipras si rizza. A questi ragazzi. Lo dico, ma no. Cosa dico? Lei è una una merdaccia! Una grande definizione, dopo il porcellum la merdaccia, la legge merdaccia, termine inaugurato qualche istante fa alla Zanzara da uno dei grandi critici di questa legge, il senatore Vincenzo Danna, grande spettacolo in questi giorni al Senato. Senatore Danna, io non ho capito bene lei in questo momento dove naviga, in che rotte naviga, cioè Forza Italia è una specie di lontano ricordo o no? No, io sono ancora in Forza Italia, vorrei capire dove va Forza Italia. Vabbè, ma lei sa che ormai Berlusconi si è legato mani e piedi a Renzi, insomma, diciamo la verità, questa e è la. Così dovesse essere, lui che è fuori da Forza Italia, non io. Addirittura? Ma allora ne prenda atto, chieda le dimissioni di Berlusconi da Forza Italia, perché ormai Berlusconi è chiaro che va d'amore d'accordo. Credo che dovremmo chiarire cos'è Forza Italia e dove vuole andare. Il presidente è il nostro presidente, ma io seguo un leader, non ho un padrone. Non ho un vabbè, d'accordo, quello, lei non ha padroni, eccetera, ma in questo momento non è leader Berlusconi? È il leader di Forza Italia. Credevo che fosse il leader, che Forza Italia fosse un partito che propugnava la rivoluzione liberale, l'alternativa alla sinistra, allo Stato massimo. E vedo invece che ci sono delle intese su leggi essenziali come la riforma costituzionale, la riforma elettorale, ci è stato spiegato che dovevamo votare queste pessime leggi per avere un buon capo dello Stato. Aspettiamo le prossime ore. Ma chi ve l'ha detta questa cosa qua, che dovete votare per avere un buon capo dello Stato? Beh, è stata detta nelle riunioni dei gruppi parlamentari. Cioè Berlusconi gli ha detto, voi votate queste cose, così vedrete che avrete un capo dello Stato concordato, che non sarà un capo dello Stato ostile, giusto? Sì, sì. È proprio così. E invece Renzi io lo butterà in quel posto, lei dice, questo è il sospetto. Ma io ho parlato con Renzi stamane perché facevo parte della delegazione del mio gruppo parlamentare. Ah beh, allora? E ha esordito nella sua introduzione dicendo che lui ha 450, credo 460 voti. Sì, e fa con la che... defezione dei 10 grillini di stamattina. Sì. E si appresta quindi a procurarsi quegli altri 40 voti, sì, che mancherebbero, sì, alla quarta votazione. Sì. Non credo che uno che ha il 99% dei voti che gli occorrono poi si pieghi alle volontà o al gradimento degli altri. Ma scusi, non ho capito, per lei un presidente che non è uno ostile, cioè che non è uno che alla fine... Che non sia stato uno delle personalità di spicco del vecchio PDS, DS, PD, altrimenti di che parliamo? Ho capito. Fatto il nome di Antonio Martino, che mi pare. Vabbè, a Martino non lo può votare la sinistra, senatore. Noi non possiamo votare certo Veltroni o Bersani o altre personalità che sono stati segretari del principale partito a noi avverso. Perché alla fine viene fuori Veltroni, no? Potrebbe... Ma alla fine verrà, non ho capito perché questo simpatico Danna, che è simpaticissimo, rallegra le cronache parlamentari con le sue ciullarate. La voce non si sente, la voce è più forte, per favore. Non capisco perché non potrebbe voltare Veltroni, il signor Danna. Ma dopodiché va benissimo, Martino per me è una persona straordinaria, un liberale, un antifascista, quindi va bene, ma non capisco perché Danna con l'antifascismo non possa votare non lo posso, perché chi se ne frega, vabbè, ma chi se ne frega di quello che dici tu, scusa, tu non ti freghi di me, io non mi frego di te. Veltroni è stato il fondatore del Partito Democratico, è stato il segretario del PDS, che è il partito a noi avverso per concezione dello Stato. Ma avete votato Napolitano, però, senatore Danna. Ma l'abbiamo votato perché in quel momento non c'era una migliore alternativa, era il presidente uscente, si è fatto un'eccezione che non può costituire la regola. Perché non si può votare Antonio Martini, che è un grande economista? Vabbè, ma lei lo sa benissimo che non si può votare perché c'è un Parlamento, che ha dei numeri, no? Bravo, ed è questo che noi abbiamo tentato di far capire a Berlusconi, che alla fine, oltre alle chiacchiere, le cosiddette garanzie, la sinistra prenderà tutto ciò che può prendere, cioè tutto, ha la presidenza del Senato, la presidenza della Camera, avrà la presidenza della Repubblica, ha la presidenza del Consiglio, e intanto voi ha la maggioranza negli organi costituzionali. Ma che ve frega, voi c'avete Zeghila. Noi non ci resta che sperare nel mutante, insomma, no? Come si dice, mutatis mutanda. Voi dovete sperare nel mutanda, ma secondo lei tra Er Mutanda e la signora Pascale c'è qualche legame? No, ma non dal punto di vista, come dire, sentimentale. No, la signora Pascale frequenta persone di migliore livello e di migliore spessore, sia sociale che culturale. Cioè, anche che vuole dire? Non credo che frequenti Er Mutanda. Io credo che Er Mutanda sia stato ricevuto da un senatore, così come lui dice, di Forza Italia al Senato. E chi è sto senatore? Cioè... Non riusciamo a scoprirlo. Appunto. Scoprirlo. Lui ha detto diversi. Io ho pensato anche a lei, senatore Danna. Devo dirle la verità, io ho poco di mistichezza con le mutande. Ha pochissima dimestichezza, cioè non se le mette le mutande, dice lei. Ma no, le indosso sempre, con grande eleganza, ma le indosso. Beh, con grande eleganza non lo possiamo sapere. Scusi, senatore Danna, ma non è un po' invidioso di Salvini? Anche quando va a dormire? Oh, no, me le tolgo. Cioè, dorme nudo, senatore Danna? questo no, metti il pigiama senza le mutande. Senza le mutande, beh, la grande rivelazione alla Zanzara, il senatore D'Anna, che non è un top model, però comunque è il senatore, no, D'Anna, assolutamente, però comunque è un signore di una certa età, però va benissimo lo stesso, non è che siamo razzisti noi. Il senatore D'Anna dice che dorme col pigiama senza mutande, che rende la cosa piuttosto interessante. Senatore D'Anna, vorrei capire una cosa, lei è invidioso di Salvini che si è messo con la Esoardi, conduttrice televisiva di Uno Mattina? Sì. Ah, è invidioso, eh? È invidioso. Ebbene, come mai è invidioso? Perché una bella donna che ti fa una dichiarazione di interesse lusinga sempre un uomo, insomma. Beh, più che una dichiarazione di interesse è proprio una confessione pubblica di un fidanzamento esistente, di una storia esistente. A maggior ragione. Vabbè. Beh, noi poi sempre berlusconiani siamo di origine. Come, scusi? Sempre berlusconiani siamo di origine. Cioè, che vuole dire? È una particolare vocazione verso le belle donne. Cioè, vabbè, ma Salvini non è che sia berlusconiano da quel punto di vista. No, dico noi. Ah, lei. Che dice... lo invidiamo, quindi il Salvini, che poi è abbastanza burbero, duro, diciamo così, avrà delle durezze che attraggono le belle signore. Di che tipo, scusi? No, del carattere. Ah, diciamo, del carattere, così, diciamo, goloso, del arcigno. Ah, c'ha quell'aspetto arcigno, dice lei, l'aspetto arcigno. Va bene, senatore, viva la merdaccia, viva la legge elettorale, definita da lei merdaccia. La merdaccia, ma solo per quella storia là dei capitalista, ma o per la storia della lista. Cioè, alla fine, perché Berlusconi ha capitolato di fronte alla cosa della premio alla lista, al premio... Guardi, vorrei che anche tra il serio e il faceto... Spiegassimo che cambiare l'Italicum senza concordarlo con chi ha pattuito con te sta cosa significa regalare con il premio di maggioranza alla lista 140 parlamentari al PD. 140 parlamentari al PD. Quello è il premio di lista. Ora, quello è il problema. I vantaggi politici in tutta questa storia, dalla riforma costituzionale alla riforma elettorale, non ne intravediamo. E i vantaggi per Berlusconi magari ci sono personali, che ne sa, in questo? Ma questo non lo so, perché il patto del Nazareno è un patto che non è scritto, se è scritto non è. Ma secondo lei c'è un patto che bisognerebbe svelare con una commissione, che ne so, ci vuole qualcosa, no? Qualcosa di. No, ma no. Non credo. Si tratta di una persona, nel caso di Silvio Berlusconi, che ha deciso di fare di necessità virtù. Gli è simpatico Renzi, lo ritiene abbastanza. Ma non pensa che ci sia qualche vantaggio per le sue aziende e cose di questo tipo? Ma anche questo è possibile, ma lo si può fare, sono vantaggi leciti, lo si può fare senza mandare alle ortiche un partito, una tradizione, un movimento politico. Va bene, grazie, a presto, arrivederci. Grazie a lei. Ciao, ciao. Io vi saluto, vi mando a fare in culo e finisce la storia. Non c'è niente da fare, c'è qualcuno che continua a chiamare il direttore Emilio Fede, continua a chiamarlo attaccandolo e lui risponde in maniera furibonda, risponde esplodendo. E poi queste persone qui, le stesse persone che lo chiamano, ci mandano le telefonate. Amici miei, non siamo il ricettacolo dei vostri sfoghi. No, sì, anche quello ogni tanto. Però non è che ci potete tempestare di nastri, di cose registrate, di file segreti. Sentiamo quest'ultima telefonata che è arrivata al direttore Fede. Ma stavo registrando, siete impazienti. Dire che banco tira. Uè, direttore, volevo dirti una cosa. Ti abbiamo registrato tutto. Bravissimo, sì, mi piace, sì. bravo. Ma non ti vergogna chiedere soldi a Mediaset? Figli ingrato. Ti voglio dire una cosa, aspetta, zitto. Tua mamma fa dei tempi pazzeschi. E te la dico, povera mamma, anche nel culo la prende. È una cosa incredibile. Povero Fede, però. Ho capito, cioè, per quello che no, si può. No, ma voglio dire, reagirei anch'io così se uno mi telefonasse, avesse il mio numero e mi molestasse. Allora, traduttore simultaneo, traduttore simultaneo della telefonata di Parenzo. Facciamo così, facciamo il traduttore simultaneo. Allora, tanto se no, altrimenti è inutile incazzarsi. Allora, ha detto: povero Fede, anche io mi incazzerei se ricevessi una telefonata così. Facciamo così, c'è una frase molto breve, che non si sente una mazza. Traduttore simultaneo dallo studio. Alberto da Modena. Ciao Cruciani. Ciao, ciao, dimmi. Ciao, dimmi. Ciao, sono il presidente della Sega di Modena. Ti chiamavo perché ho sentito appunto alcune chiamate di sì. prima per quanto riguarda l'omofobia e queste sì. cose qua. Niente, ti volevo dire che quello che succede, ad esempio, oggi eravamo a Pistoia per mettere una lapide in memoria appunto delle persone che sono state uccise nei campi di concentramento. Sì. E penso che a fronte di tante cose che si sentono, appunto chiamate di gente che ancora se la prende sugli omosessuali, in realtà piano piano, punto dopo punto, stiamo cercando di cambiarla questa cultura. Quindi c'è anche una realtà. Vabbè, adesso però Alberto, non è che ci devi venire a fare il programma dell'arcigay qui, Alberto. No, di cosa vogliamo parlare però? Di che vogliamo parlare? Perché si danno del ciccione, quando in realtà poi dopo ci sono dei ragazzi che stanno molto peggio di fronte al fatto che non si sentono accettati. Quindi sempre misurare il peso di queste, è ovvio che è una cosa che non va fatta e non si prende in giro nessuno, è sbagliato, però allo stesso tempo negare la possibilità di una persona di esistere dall'altro è sempre molto più pesante. Sì, ma io non ho capito bene, adesso con tutto rispetto, non ho capito bene il senso di questo intervento. Negare la sessualità, chi è che nega la sessualità, scusi? Scusami, Alberto. Che lavorano. Ma nessuno nega la sessualità. In Italia c'è una grande libertà di fare quello che uno vuole. Ma, sì, ma Alberto, tu credo che puoi fare sesso con il tuo compagno quando vuoi, come vuoi, non penso che sia un problema, no? Cioè, nessuno nega la sessualità. Adesso, francamente, questo è ridicolo. L'affettività è anche un lato sociale importante. E allora? E quello, su quello se si lotta. Vabbè, allora. Molto, devo dire essenzialmente questo, insomma, che si lavora. A favore. Sì, tanti volontari lavorano per queste cose. Il 27 di gennaio in tutta Italia sono state manifestazioni a parte l'Arcigay. Scusami, Alberto, io non ho capito una cosa. Va bene tutto, tu sai come è fatta questa trasmissione. Uno interviene per dire oggi molti delle persone dell'Arcigay hanno manifestato per testimoniare non so che cosa. Ma vabbè, allora? È importante secondo me. È importante. Fatto che... Bene, registriamo questa cosa. Gianfranco da Genova, divento pazzo io per queste cose. Pazzo, Gianfranco. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Dimmi Gianfranco, dimmi. Volevo proporre una cosa per evitare lo strapotere di Rocco Siffredi all'isola. Abbiamo una settimana di tempo perché la tempesta nei Caraibi ci aiuta. Volevo proporre, visto che Oliva è suonato e Diaco è una scartina, che partisse tu e Barisoni. Per questo rinuncerei. Solo per questo rinuncerei alla Zanzara e a Focus Economia. È impossibile quello che tu auspichi, quello che tu sogni, perché come facciamo a fare la radio? In particolare io come faccio a fare la radio, diciamo? No, non la fai, ti sacrifichi per limitare lo non si può fare. A parte che nessuno mi ha invitato all'Isola dei Famosi, nessuno mi ha invitato, non so nemmeno se poi alla fine andrei, però ti dico, è impossibile, è praticamente impossibile. Caro Gianfranco, mi fido ciecamente del parere di Feltri. Io no, mi fido ciecamente del parere di quello, Feltri. Ma a che proposito, scusa? No, Feltri, nel jingle che mandate in onda, Feltri dice la tua passione, che è anche la mia, con il rispetto di tutti, io sono convintamente etero. Vabbè, ma che c'entra questo con l'Isola dei Famosi? Non è che si scopa l'Isola dei Famosi, no. Gianfranco? Cioè... Però hanno mandato un lupo in mezzo alle pecore e non ha nessun rivale, il problema è quello. Ah, nessun rivale dal punto di vista mediatico, tu dici, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista... diciamo come uomo, dici, non ha nessun rivale, ma ho capito, esatto, ma non è che è costruito perché Rocco Siffredi rimorchi qualcuno là, cioè, comunque Rocco Siffredi ieri nella puntata abortita dell'Isola dei Famosi ha detto una frase significativa. Mara, dimmi, no, vorrei sapere perché Rocco sta dietro, mettiamolo davanti. Perché è il più alto, perché è il più alto. Io sto sempre dietro, ecco. E guarda che se vedi bene sto dietro alle Nasty Queens. Stop! Rocco, basta, ok? Diciamo che sei il più alto e quindi stai dietro, basta, per quello, sennò non si vedono le Donatella, le Rashida e tutti quanti. Allora. Vabbè, abbiamo capito quale sarà il tono degli interventi di Rocco Siffredi all'Isola dei Famosi. Io sono sempre dietro. una cosa controtendenza. Viva il traffico, viva il traffico, perché c'ha una voce sexy. Sono tempi duri, eh. Non tanto per noi, ce ne frega niente, nulla, zero. Giulio da Verona, buonasera. No, ciao Beppe. Dimmi, ascoltami un attimo, voglio fare un intervento sulla storia della Fabietti di... Mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento. Ecco, allora ascoltami un attimo. Ieri diceva che Corona, perché ha fatto lo sbruffone, ma giusto che ha preso 12 anni. No, ma non ha, non ha detto questo, dai, su, non ha detto. Insomma, oh, Beppe, tu, poi a te ti piace la fighetta perché si vede come la trattavi. E no, lì non ci piove, però attenzione, nel senso... No, non ho capito bene come la trattavo, chi, scusa? La signora. Nel senso, in una maniera, diciamo, un po', ecco, interessante. Come del resto la persona si presta, è una bellissima donna. Sì, il ma non guarda che di solito litighiamo con Alba, per cui... Sì, sì, vabbè. Vabbè, cioè, allora, cioè, Giulia, non ho capito. Il parallelo voleva essere con Chettino. Cioè, 36 persone, 36 anni, cioè delle cose che non stanno in piedi. Come si fa a paragonare una pena messa in mano a un giudice che ha più o meno simpatia nei confronti dell'individuo? Abbiamo sentito che cosa hanno detto di Schettino, che solo il signore lo può perdonare. Scusa, però Giulio, abbia pazienza. Io non so di che stiamo parlando. Di che stai parlando? Mi spieghi di che stai parlando? Non ho che capito. Che non è assolutamente una giustizia, e non è assolutamente una giustizia... onesta, quella che fa sì che un giudice per antipatia o simpatie faccia... Ma questo qua deve essere d'accordo, in generale, se un giudice allora, le parole del giudice l'altro giorno del PM nella vicenda Schettino, secondo me sono assurde, quando si dà dell'idiota a Schettino, quando si parla della giustizia di Dio, eccetera eccetera, delle cose ridicole che un giudice non dovrebbe fare, che un pubblico ministero non dovrebbe dire, primo. Secondo, la vicenda Corona, nessuno può sostenere che è stato condannato perché al giudice stava antipatico. È stato condannato perché evidentemente delle giurie, diversi giudici hanno ritenuto che fosse colpevole di quei reati, punto, o no? Sì, anche se in più di un'occasione si è sentito sempre che lui, a causa del fatto che ha fatto lo sbruffone più o meno in tribunale... Ma quelle sono interpretazioni, io quelle robe lì non le prendo nemmeno in considerazione. Ha fatto lo sbruffone, fortuna, siccome voglio immaginare che un giudice non si fa condizionare dal fatto che quello è antipatico, quello fa lo sbruffone o quello va in aula a dire cazzo invece di pene, spero, questo è sempre Parenzo, spero che si siano fatti condizionare solamente dalle prove e da quello anche che... Anche perché Beppe, poi questa roba qua non è più nemmeno quella di Berlusconi, perché comunque l'accanimento che c'è stato nell'individuo, da un certo punto di vista, la Boccassini è stata abbastanza evidente, no? Lo voleva bastonare con un bambino sulle mani. Grazie, Massimo, Roma. Beppe, senti, ascolta, io vorrei capire perché ogni volta che la gente che ti chiama mette in mezzo i valori dell'antifascismo, tu li devi cazzare e dici, insomma, non si può parlare di antifascismo, non ci sono più i fascisti, eccetera, eccetera. No, io ho detto semplicemente una cosa, che se uno pensa che il fascismo, i fascisti siano un pericolo, è un malato di mente, un malato di mente. Insomma, come sono malati di mente i 99 posse, quelli che hanno manifestato con i caschi e con i bastoni in una manifestazione l'altro giorno a Cremona, e come forse faranno anche giovedì. Ma sono cose diverse. Ma cos'è diverso? Adesso è arrivato lui dall'oltretomba. Sono cose diverse. Che cos'è che è diverso? No, sono cose diverse. Che cos'è diverso? Sono i 99 posti. Vabbè, non si sente. Massimo, continua. Vabbè, scusa, su un conto è che tu dici a Parenzo che insomma delira sull'antifascismo perché è facile via per il culo Parenzo. Però quando i telespettatori, cioè gli ascoltatori ti chiamano e ti dicono insomma che credono nell'antifascismo, mi devi spiegare perché dici sempre insomma ancora con l'antifascismo. L'antifascismo è un valore, si vuole capire, no, o no? Scusa, abbi pazienza, io sono antifascista e anticomunista, per me è la stessa identica cosa, non è un problema. Se per te è un valore, ma tu fai benissimo a professare come valore l'antifascismo, ma è una cosa meravigliosa, ottima. Ma non sei tu, commenti, Massimo, non sei tu a dover, come dire, essere il custode di questo antifascismo, no? Cioè, no, non sei tu, né no, deve no, essere no, il centro sociale di Cremona, non, è, no, i, non no, sono i signori di 99 posse, non no, sono altri centri sociali. Cioè, il custode della legge è lo Stato con la polizia, chiaro? Ma la polizia polizia, lo sai com'è. Ma la polizia lo so cosa. Ascolta, ti ricordi che una volta alla manifestazione davanti al Senato sono entrati a Piazza Navona con i bastoni, col tricolore sui bastoni, hanno menato gli studenti e la polizia li ha fatti entrare. Ti premetto che io vivo a Roma, c'erano delle camionette che bloccavano gli accessi e questi sono entrati con un camion con i bastoni. Chi li ha fatti entrare a questi? Insomma, cioè, bisogna stare attenti perché la polizia, lo Stato, certe volte non si sa questi da che parte stanno. Cioè, vorrei capire perché non si può parlare apertamente di queste cose. Cioè, poi non è che uno fa la difesa. Qui si può parlare di tutto, degli sbagli della polizia, degli errori della polizia, di quello che vuoi. Ma non c'entra niente con quello che è accaduto. Lo vogliamo capire che oggi uno scrittore importante come Henry De Luca, io non l'ho mai detto, ma penso che il processo ai suoi danni sia un errore tragico per le cose che ha detto sui Notav, cose pessime, orrende sulla violenza giustificata nel caso dei Notav, ma che non sono un'istigazione alla violenza, secondo me. Oggi Henry De Luca ha detto che, a proposito delle frasi dei 99 Posse, che è una giusta reazione a un'aggressione fascista ed è libertà di espressione. Allora, che sia in un certo senso libertà di espressione, io posso anche essere d'accordo, tant'è che non mi piaceva il divieto al concerto, che poi è stato revocato il divieto, ma che sia una giusta reazione è chiaramente una frase violenta quella che è stata scritta 99 Post. Cioè, sono contenti i 99 Post se qualcuno prende i bastoni e va a picchiare un fascista, sono contenti, magari l'hanno fatto anche loro, cioè è praticamente una confessione: noi siamo quelli che ogni tanto, se capita, picchiamo un fascista, siamo contenti quando uno, che un presunto fascista, viene picchiato, punto. Cioè, non è altro. E uno scrittore come Henry De Luca, che dice che è una giusta reazione a un'aggressione fascista, è ridicolo, vive in un altro mondo, vive indietro di 30-40 anni, non ha lasciato quel mondo lì. Maurizio, Siena. Buonasera, Cruciani. Dimmi. Intanto volevo fare complimenti per la musica emettese, è spettacolare, e poi al senatore D'Anna tutta la vita. E volevo fare una critica su Matteo Pinocchio, che ha fatto questo Twitter, appunto, perché è intervenuto in una trasmissione, quando penso che non si possa nemmeno fare o non si dovrebbe fare da una persona come lui. Quando, mi ricordo, tempo fa, quando Berlusconi era al potere, intervenne, non mi ricordo in quale trasmissione, e fece una cosa tipo lui, nel senso, lui intervenne direttamente, telefonicamente mi sembra, e i giornali, i telegiornali ne parlarono e dissero che lui manipolava tutte le televisioni. Allora devo pensare che anche il signor Matteo Pinocchio manipola le televisioni o manipola i giornali. Non lo so, volevo sapere una risposta da lei. Non lo so, non è che manipola, perché evidentemente il potere di intervento di Berlusconi nel campo dell'informazione è incommensurabilmente superiore a quello di Renzi, e su questo non c'è dubbio, il conflitto di interesse è quello che vogliamo. I due casi non sono evidentemente comparabili. Certamente Renzi ha delle relazioni personali con giornalisti, con alcuni conduttori, eccetera, ha un modo di trattare con le singole trasmissioni che è assolutamente personalistico, quasi da rock star. Basta segnalare il diverso trattamento che devono subire trasmissioni di Mediaset. C'è una trasmissione di Mediaset di cui non faccio il nome, in cui va a ospite un giorno sì, un giorno no, anzi faccio il nome, che è quella di Del Debbio. C'è una trasmissione Mediaset in cui non si è mai seduto in studio perché gli sta antipatico il conduttore, che è Matrix. È molto semplice la cosa, cioè, e tutto questo non deriva da un ragionamento, come dire, di mediatico, di comunicazione, è solo esclusivamente una questione di simpatia personale. Cioè, lui sceglie di andare in una trasmissione, Renzi, che è quella su Rete4 condotta benissimo dal professore emerito Del Debbio, perché con Del Debbio ha instaurato, forse anche per affinità regionali, una relazione personale. Siccome poi gli sta antipatico Telese per mille altri motivi, non va da Telese, non si è mai seduto da Telese, ha fatto di puzza un'intervista in 2 anni con la signorina Barra. Bellissima intervista, per carità, intervista assolutamente degna. Però non si è fatto intervistare né dal conduttore, non è andato in studio, perché gli sta antipatico il conduttore. Queste cose bisogna dirle o non bisogna dirle? Questa è una casa di vetro e si possono tranquillamente dire. Ehi, ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Comunque mi hanno anche detto che la vostra trasmissione va molto forte, di molto successo, ma forse piace la cattiveria. Garbi ieri sera a Piazza Pulita, Verdini impresentabile, Veltroni non è laureato, Padoan non sa neanche come si chiama. Poi certo, a uomini come Verdini, che sono talmente impresentabili, che sentire che parlano per l'Italia mi disgusta profondamente. Certo, questo Padoan che non sa neanche il suo accento, perché uno che si chiama Padoan si fa chiamare Padoan, non mi sembra probabile come presidente. Padoan, non Padoan, cioè, non esiste. La lingua italiana e gli accenti dei dialetti delle lingue sono, vanno rispettati. Ma tolto questo, non credo che uno non è neanche padrone del proprio cognome. Non sa chi è, cioè ha un problema di identità. Dice lei chi è? Io sono Padoan. Tu hai mai letto un libro di Veltroni? Adesso, a parte Rutelli, ma ci sono in Italia uomini che hanno espresso un pensiero alto? Penso Carlo Petrini, esiste o non ha fatto politica? Ha fatto una cosa straordinaria che vale mille Tsipras? Tu vuoi un non politico, un uomo che intenda la politica come la verità delle cose. Umberto Veronesi, che è stato ministro, sarà un uomo? Non Veltroni, dico Veltroni, io l'ho letto, è un ragazzo bravo, insomma, si è laureato Veltroni? Ti risulta laureato? Adesso non mi sembra quello il problema, la laurea di Veltroni, eh. Oh, a proposito della vicenda di Cremona, sentite cosa dice. Vabbè, arrivederci, buonanotte. Marco Messina, rumori che vengono dall'oltretomba. Marco Messina, che è uno dei 99 posse. Non abbiamo. Questi non hanno nemmeno il coraggio proseguire su questa linea. Cioè, dico, non abbiamo incitato alla violenza. Il fascismo è da 10 anni che lascia i morti per terra. Cioè, ma uno deve chiaramente dire, noi i fascisti li vogliamo morti, quelli, i presunti, quelli che secondo loro sono fascisti poi, li vogliamo morti. Vogliamo il diritto per ciascun cittadino italiano di prendere la pistola e ammazzare uno che pensa di essere fascista. Noi non incitavamo alla violenza, noi volevamo semplicemente ribadire che è necessario in Italia combattere nuovamente il fascismo, perché il fascismo da 10 anni a questa parte lascia i morti a terra. Ragazzi, siamo veramente al delirio questi qua, cioè alla una specie di, cioè come quei film con Charles Bronson in cui uno si fa giustizia da solo in nome di valori superiori, ma siamo, è una cosa talmente delirante che uno dovrebbe mettersi a ridere, cioè una crassa risata. Per questo devono cantare, per questo devono suonare, per cui uno si dovrebbe mettere a ridere di fronte a queste puttanate. Poi ovviamente no, quando a ridere, no. Sì, a ridere sì, perché vabbè, tanto non si sente. Mario Milano, vai, Mario. Ogni volta faccio appena non si sente, dico, non si sente, via, fuori. Mario Milano, vai, Mario. Condivido tutto quello che dici, perché questi qua dei 99 post, sinceramente, avrebbero anche rotto i coglioni. Io ho chiamato per fare un altro intervento su Cecchi Paone, affetto da frocite acuta, che vabbè, non ho capito perché ci deve scassare la minchia ogni volta che fa un suo intervento in qualsiasi trasmissione. Però questi qua dei 99 post che parlano di fascismo, usano questi termini, questo termine crudo, fascismo, che sinceramente io sono di destra, e ogni volta sentire questo termine altamente spregiativo, fascismo, eccetera. Allora, questa è gente che occupa le case degli altri, è gente che detesta i doccia schiuma per principio, perché non si lavano, puzzano come caproni, sono zecche nell'intimo e fanno prosopopea in tutti i programmi dove vanno. Vabbè, chi? Ma chi? Chi? Questi comunisti, questi sinistroi. Vabbè, non è che sono tutti zozzi, però, scusami. Sono tutti zozzi, fatti un giro in metropolitana. Vabbè, ho capito, ma quelli sono i panca bestia che sono zozzi, scusa Mario. Pronto? Chi è? Sono Gianluca Buonanno. Ciao Gianluca, come stai? Ciao, bene, bene. Davide c'è? Davide? Sì che ci sono, certo che ci sono. Sì, c'è Buonanno, Vabbè, chissà che cazzo ha fatto oggi che l'hai chiamato. No, non è che in pompa magna. Che vuol dire in pompa magna? No, ma stava intervenendo un ascoltatore un attimo. Chi era? Mario, vai. Certo, sì, no, ti stavo dicendo che sono contro i doccia schiuma, perché la Palmolive, per esempio, è una multinazionale americana, e questi per principio non li usano per non dare i soldi, non far guadagnare le multinazionali, capito? E allora non si lavano, sono zozzi, puzzolenti. prendono i vestiti di seconda mano, i mercatini, ma devono finirla di rompere i coglioni questi comunisti e vedere tutte le trasmissioni telese, telese, che parla con questa S come Vendola, ma cosa, cioè la Frocite tra l'altro, porca, fa arrotolare la lingua. Ma che c'entra la Frocite in questo caso, scusa? Perché è tutto connesso, guarda, è tutto connesso, alla fine è tutto collegato. È tutto collegato, ma la Frocite di chi sarebbe poi? La Frocite ne sono affetti i comunisti, perché non facendosi la doccia, sì, poi diventano froci, sì, gli si arrotola la lingua e... Sì, ma non è che tutti i comunisti sono omosessuali, eh? No, tanti sì però, eh. Ma non è vero, ma di che stai... è vero. Ah, ma sai che una volta ho visto Parenzo in metropolitana, ma te lo devo descrivere, guarda, sì, era troppo divertente. Parenzo era in metropolitana qualche volta, sì. Quando io l'ho lavorava... avuto sempre la metropolitana. Quando sì, lavoravo in Lombardia, ragazzi, l'ho visto una volta, mi sono cazzo, mi stavo pisciando addosso da ridere, che perché? È difficile, eh. Perché era praticamente col pantalone blu con la riga davanti. Sì. Cioè sembrava che andava a fare la prima comunione, la giacchetta, sì, la 24 ore. Ma la cosa più bella è che aveva il pantalone che non era abbastanza lungo e gli si intravedevano i calzini bianchi, come proprio la prima comunione. Sembrava quasi Michael Jackson. I calzini bianchi è impossibile perché non li ho mai avuti. No, guarda che io non punto mai. I calzini bianchi sembrava che andava a fare la prima comunione. Eri fantastico. Guarda, io posso assicurarti che non ho mai indossato in vita mia i calzini bianchi, neanche quelli di studio. Allora, ha detto per la traduzione, la traduzione di Parenzo, 8-9 anni fa, sì, la traduzione di sì, ho capito benissimo, la traduzione dell'intervento di Parenzo, per chi non l'avesse capito, ma sono molti, è questa: non ho mai indossato i calzini bianchi, forse nemmeno alla prima comunione. Questa traduzione dall'oltretomba alla realtà della radio da parte del sottoscritto. Ma abbiamo con noi, grazie Mario, Gianluca Buonanno, europarlamentare della Lega Nord. Ciao Gianluca. Ciao. Eccoci qui. Allora, saluta Parenzo, non so se ti sente, perché stasera... Un saluto. Senti una cosa, ciao. Ma io ti sento. Il tuo, ciao, presidente preferito, qual è Gianluca, il tuo presidente della Repubblica? Hai un tuo preferito? Cioè dire, che ne so, se alla fine, oppure come a tutti quelli della Lega non me ne frega niente, che tanto hanno deciso Berlusconi e Renzi. Sì, ecco, siccome hanno già deciso Berlusconi e Renzi, posso solo dire questo: spero che non sia omosessuale musulmano. Cioè, scusa, non ho capito, cioè, a te vanno bene tutti? Sì, tutti, tanto hanno già deciso loro, quindi siccome hanno già deciso loro, l'unica cosa che speri sia che non fosse omosessuale musulmano. Cioè l'unica cosa per te positiva alla fine è che vanno bene tutti, cioè, oppure vanno male tutti purtroppo, tu dici, perché sì, li scelgono, sì, così, però almeno che non sia gay, la prima cosa. Sì, perché quello, e poi che non sia musulmano. Vabbè, musulmano mi pare più difficile, però diciamo la verità. Vabbè, però non si sa mai nella vita. Cioè tu dici alla fine potrebbe spuntare pure qualcuno che poi dice ce n'abbiamo uno in Parlamento, potrebbe pure diventare Presidente della Repubblica qualcun altro, no? Appunto. Capito Parenzo, le preferenze di Buonanno quali sono? Che almeno non sia gay. Vabbè, sì, arrivederci, buonanotte, Parenzo. Buonanotte, sorella. Si è addormentato, ma no, sai che cos'è? Che Parenzo è rimasto sconvolto. Guarda, cioè... è rimasto sconvolto perché magari lui ci spera. No, non credo che ci speri. Pensavo scherzasse, ma purtroppo invece dice la verità. Vabbè, se uno non può sperare che non, uno non può sperare, no, che... il mio era un silenzio attonito, sì, di fronte, sì, a una persona che ormai vomita qualunque cosa, contento, è vomito. È una cosa incredibile, è un parlamentare europeo, però va bene, okay. Le persone hanno, bene, ascoltato, hanno sentito qual è il profilo che non deve avere il Presidente della Repubblica. Secondo il parlamentare europeo della Lega Nord è una cosa agghiacciante, solo il silenzio, solo il silenzio. Sì. Ma io, bravo, non ho capito, non può dire che non vuole un presidente. Può dire quello che vuole, perché ovviamente dice quel che vuole, e le cose, le fregnacce più grandi le dice lui, del circo Barnum, del circo Buonanno. Dopodiché io rispondo con il silenzio, perché cosa dirà ancora? Cioè ormai, cosa vuol dire di più oltre tutto quel che ha fatto e ha detto? Cosa può fare di più? No, ha cantante sta, dice la sua, esprime la sua, fa politica in maniera normale. Ma non è che esprime semplicemente la sua, cioè no, perché esiste la lobby degli omosessuali, a me non va, quindi spero che non ci sia un omosessuale Presidente della Repubblica, appunto. Ma scusa Gianluca, ma vabbè, però diciamo che prima o poi capiterà, perché se gli omosessuali sono il 10% della popolazione, come dice qualcuno, capiterà. Cosa vuol dire capiterà? Cosa vuol dire capiterà? Ci sono paesi che hanno anche primi ministri omosessuali, Ma come fai a discutere? Ma come fai a discutere con una persona? A me piace anche solo a discutere sul suo stesso piano. Ma che io non capisco che cazzo discuti con questo sullo stesso piano. Ma dico, ma sei impazzito? Non si può. Penso dobbiamo discutere con un coglione che a scherzi a parte non ha capito che lo prendevano tutti per il culo. Tu pensa con chi parliamo noi. Guarda, la piccola differenza è che io posso anche Che ti hanno lasciato l'autogrill. Sì, con un salame. Io posso anche essere caduto nella trappola di uno scherzo, ma a differenza tua non ho la responsabilità di fare leggi e di rappresentare delle persone. No. Questa è la piccola differenza. Beh, intanto al Parlamento europeo non si fanno leggi, quindi comincia a studiare un po' il regolamento. Senti, a proposito, il Parlamento europeo di leggi non si fanno. A proposito di Lega, però la notizia di oggi, caro Bonanno, so che non ti riguarda. È stato anche deputato alla Repubblica. Vabbè, adesso non scendiamo in queste robe. No, vabbè, è stato deputato. Sì, no, sì, certo. Purtroppo qualcuno la. Ma guarda, la cosa drammatica è che siccome il Parlamento europeo metti la preferenza, vuol dire che ci sono delle persone che sono simili a questo qua. Questo è un altro grande segno di cui discutere. Ma come questo qua? Ma te, se non sei la mia storia, lascia perdere. Chi è che mi continua a chiamare? Sgarbi? Che vuole Vittorio? Vittorio, che c'è? Vai, rivendicato in dialogo con me la libertà di fare la caricatura di Maometto. Assolutamente. Allora Bonanno potrà dire questa cosa, solo questo volevo dire. Se tu puoi dire che Maometto è... Ma infatti, certo. Dunque cosa? Allora, garantendo Charlie è Bonanno, lo impari il nostro amico. Charlie è Bonanno. No, ma è Parenzo che si scala... Ma è perfettamente logica. Charlie è Bonanno, uguale. Cioè lui ha diritto di dire che non lo vuole musulmano, come avete detto... Spegni la radio un attimo. Spegni la radio. È omosessuale perché ha delle buone ragioni legate ai valori cristiani. Spegni la radio un attimo. Spegni la radio mentre parli. No, adesso è venuto perché mi sentivo. Cioè, gli stessi diritti che tu hai garantito, la libertà di espressione di Charlie, Bonanno può dire quello che vuole, e nei limiti che possono sembrare politicamente scorretti, ma non è poi tanto grave, perché una cosa come questa poteva dirla anche Saragat e Pertini avrebbe detto la stessa cosa, cioè... non lo voglio musulmano e non lo voglio omosessuale, e così con Siga, forse anche Ciampi. Non è che questo Bonanno è l'ultimo balordo del mondo, il nostro politicamente corretto, che ultimamente dice sempre cose che io approvo, non può pensare che uno non può dire che non vuole un presidente omosessuale, perché l'omosessualità non è una cosa colpevole, ma è una cosa che può in qualche misura diventare un limite che porta al quinale il berlusconismo, perché porterà un sacco di procetti a fare le cose che ha fatto Berlusconi a Palazzo Chigi, è pericoloso. Ma tu stai dicendo che un presidente omosessuale magari... deve cominciare a fare la sua banda di procetti, non è, mi ha detto che non la faccio, hanno visto che l'ha fatto Berlusconi a Palazzo Chigi, sono andate le troie a Palazzo Chigi, quindi stiamo attenti. Io vorrei un Presidente del Consiglio casto, del tutto estraneo a una tematica sessuale, viva, quindi Rodotà va bene. Perché nel senso, questo è stupendo come argomento, tu dici la cosa dovrebbe essere casto secondo te? No, dico casto è un paradosso, ma non è che nel dire non lo voglio omosessuale c'è un razzismo politicamente scorretto con l'aria dello scandalo del nostro amico Parenzo. È un atteggiamento un po' così di pregiudizio provocatorio, che se quello del cristiano poi è perfettamente lecito. Cioè uno può dire, come potrebbe dire qualunque musulmano che non vuole un presidente cristiano, può dire un cristiano che vuole un presidente cristiano. E così come Charlie prende per il culo i musulmani, quello che ha detto oggi Bonanno lo rende degno di Charlie. No, assolutamente no. Ma però scusa, secondo te per esempio Vendola non potrebbe mai diventare Presidente della Repubblica? Ma potrebbe diventarlo, ma sarebbe inopportuno per i limiti intellettuali di Vendola, non per i limiti fisici, ma certamente che vada in giro con suo fidanzatino e mano nella mano è una cosa che quasi il presidente migliore è quello che non ha neanche moglie. Cioè uno che ha una moglie in casa come la Cossiga. Cioè col fidanzatino in mano che succede? Il riferimento sessuale è un riferimento paradossale, ma non è poi così osceno, ecco quello che volevo dire. No, grazie, a domani, ci sentiamo domani Vittorio, ciao. Allora però buon anno, questa cosa è, tu per esempio Vendola ce lo vedi? Grande difesa di Sgarbi, no? Di Buon anno, però Tu vendo la Presidente della Repubblica, ce lo vedresti oppure sarebbe assurdo? No, sarebbe la barzelletta del mondo. Perché? Sarebbe la barzelletta. Ma quello che ha detto Vittorio Sgarbi lo sottoscrivo in pieno. Ma dai, cosa, andiamo lì, due mano nella mano, e voglio un bambino. Ma stai in Puglia, rimanici fino a che campi, boh. Cioè tu dici un omosessuale in questo momento non può diventare Presidente della Repubblica? Ma no, assolutamente no, io mi vergognerei, saremmo la barzelletta davvero del mondo. Va bene, chiudiamo qui, ciao Gianluca, a presto. Ciao. Parenzo, ciao, ci sentiamo domani, ciao a tutti, la zanzara si chiude qui, andatevene a fare in culo, ciao. Buonasera, quando sento Tsipras si rizza. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tu ci credi che ho mai visto un pene che non fosse il mio? Radio 24. La passione si sente.